Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Tra un paio d'ore in Sudafrica torna in campo la Spagna contro l'Iraq. L'Iraq guidato da Bora Milutinovic, il grande zingaro del calcio mondiale. Quindi inizia il secondo turno di questa Confederation Cup e c'è subito la controprova per la nazionale che al primo turno ha destato di gran lunga, insomma, l'impressione migliore, più autorevole. Ne parliamo più tardi con Roberto Beccantini su un argomento che invece su un tema che riguarda più direttamente l'Italia, poi con Stefano Piazza con un collegamento da Sudafrica. Prima anteporrei due notizie d'agenzia che arrivano da Madrid e che mi sembrano degne di nota. La prima riferisce di una riunione della giunta direttiva del Real per fare il punto dopo i primi botti della campagna acquisti, cioè dopo Kakà e Cristiano Ronaldo. Secondo questa agenzia il club madrileno dice che ormai c'è un surriscaldamento del mercato e quindi i dirigenti come se altri l'avessero surriscaldato, no? E quindi hanno deciso di sospendere le trattative per Xabi Alonso, per Villa, per Ribéry ed eventualmente per altri, finché, si legge su un comunicato, finché la voracità dei venditori non si sarà calmata. Trovo irresistibile. Non solo, ce n'è un'altra frase irresistibile che arriva appunto dal Real, perché uno dei responsabili del club ha detto: ormai nel mondo credono che noi siamo Remida, e anche lì è come se qualcuno... come se fosse una sensazione gratuita dovuta chissà a chi e non a loro, anche perché poi c'è, così ad abundantiam, c'è un'agenzia successiva di un quarto d'ora più tardi secondo cui lo stipendio che toccherà a Cristiano Ronaldo da parte del Real Madrid dovrebbe aggirarsi intorno ai 13 milioni di euro e quindi anche questo dà un po' il senso, no? di quello che sta accadendo a Madrid. Non è andato nel migliore dei modi l'esordio della nazionale italiana l'Under 21 agli europei di Svezia. Sentiamo il commento del CT Casiraghi a questo 0-0 ottenuto all'esordio contro la Serbia. Abbiamo fatto bene, il primo tempo molto bene, abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco, abbiamo avuto anche diverse occasioni, per la verità anche nel secondo tempo potevamo fare gol, poi è chiaro, insomma, abbiamo concesso magari 10 minuti, un paio di occasioni da gol, ma insomma è stata una partita difficile come me l'aspettavo. In effetti difficile lo è stata, soprattutto nel finale. Non è ancora una notizia, per il momento è un'indiscrezione, ma insomma di quelle destinate a far rumore, perché è saltato o sta saltando il trasferimento di Cissoko al Milan, dell'esterno del Porto, che due giorni fa era stato addirittura già presentato dal Milan, già annunciato, e invece c'è un problema di visite mediche. Il giocatore, al momento si sa che il giocatore non ha superato le visite mediche, non si conoscono ancora i dettagli e le spiegazioni che ovviamente dovranno essere date. Certo è che al momento il non solo il contratto non è stato firmato, ma sembra proprio che la cessione del giocatore dal Porto al Milan sia destinata a saltare. Poi avremo altre notizie, altri commenti che riguardano il mercato più tardi. Per esempio sentiremo Pierpaolo Marino che parla di Lavezzi e del suo ritorno dal volontario esilio argentino, ma io credo che sia il momento di cambiare argomento e di trovarne uno di particolare fascino. C'è una suggestione che rimbalza dal Sudafrica e ci riporta indietro di 30 anni, a quando un altro Rossi, che da lì a qualche anno avrebbe poi firmato il Mondiale di Spagna, sbocciò in una nazionale che pareva blindata dal blocco Juventus-Torino. Allora Rossi giocava nel Vicenza e portò una ventata di freschezza e di classe e di velocità e di tante altre cose. Che analogie e che differenze tra quel Rossi di allora e questo di oggi? Lo domando a un amico dalla memoria buona come Roberto Beccantini, editorialista della Stampa. Roberto, ciao. Buon pomeriggio, Gigi. Senti, intanto, al di là del cognome e della suggestione inevitabile, ci sta il paragone tecnicamente? Ma io penso proprio di sì, perché, sai, uno è alto 1,73 Giuseppe Rossi, l'altro un centimetro di più Paolo, però Giuseppe più pesante, sono tutti e due attaccanti centrali, Giuseppe al limite può lavorare su più campo rispetto a Pablito che era soprattutto micidiale nell'area di rigore, quindi il paragone secondo me ci sta proprio al di là dei nomi, permettimi di aggiungere della maglia, ho trovato scena quella in Sudafrica, sembravamo con tutto il rispetto l'Uruguay, invece noi siamo nel bene e nel male l'Italia. Sì, sì, siamo d'accordissimo, mi pare che ci sia una discreta, no, unanimità no, ma insomma che siano tante le voci che si stanno levando a proposito di questa divisa. Vediamo di esaminarli un po' più da vicino. Intanto i tecnici, cioè gli allenatori eccetera, comincerebbero a questo punto a distinguere tra prima e seconda punta. Rossi mi pare sia e si dichiari una seconda. Paolo era indifferentemente una prima o una seconda, se non ricordo male. Paolo nasce alla destra, se non ricordo male. Tra l'altro. Sposta verso il centro e lì e pianta le sue tende, si stabilisce. Diciamo che l'area per Paolo era tanto la casa quanto l'ufficio. Mentre Giuseppe vi entra come alla grande su azione manovrata, come in occasione del terzo gol, o suona il campanello con il pugno come in occasione del primo, ecco. Sì. Però direi che se si può trovare una piccola differenza è questa, diciamo che l'area per Paolo era casa ufficio, per Giuseppe ufficio, è vero, anche perché Paolino Rossi, di Paolino Rossi di gol da fuori area io ne ricordo giusto uno contro il Brasile, il secondo, perché aveva meno potenza di conclusione mi pare, mentre questo ne ha da vendere. Esattamente, ed è provata il primo gol agli americani. Di sicuro Gigi, Paolo batte Giuseppe, almeno per adesso, nella rapacità e nella voracità dentro l'area, nessuno sì. come lui, lì siamo a livelli di Gerd Müller, capito? Tanto sì, per sì. dire. Sì, sì. Mentre Giuseppe può recuperare terreno appunto nel fatto che ne occupa di più e ha altre possibilità di segnare, fermo restando che per entrambi insomma il colpo di testa è abbastanza inusuale come strumento del repertorio, ecco. È vero. O almeno sulla carta, perché poi hai visto Messi nella finale Champions League a Roma. Sì, diciamo che no, non partono come colpitori, esatto. poi non si tirano poi indietro. Poi trovano un Ferdinand in vacanza, di vacanze sì, romane, sì, sì. Capito? Esatto, allora esatto. Si può stare. Anche perché la scelta di tempo a tutti questi qua non manca di sicuro. Io credo però che per fare un'analogia corretta tra i due Rossi, bisognerebbe oggi che questo qua, che Giuseppe ne ha 22, bisognerebbe prendere il Paolino o il Pablito di 22 anni. E quindi lui è del settembre 56, bisogna arrivare all'argentino poco dopo, insomma. Sì, certo, sai, lui diciamo che una diciamo così, un elemento di comunione fra i due è che le grandi squadre, se escludiamo il Manchester United, ma a livello proprio giovanile, hanno sempre all'inizio non l'avevano capito. Ecco, tanto è vero che Paolo esplode nel Vicenza, mentre Giuseppe è costretto addirittura ad andare all'estero. Detto questo, sai, il Paolo che arriva in Argentina è già capocannoniere nel Vicenza, sì. In quella Real Vicenza di Gigi Fabbri, che mi ricordo no. un'orchestra strepitosa, grande calcio. Grande calcio e calcio di tutti i tempi, non di un tempo, hai capito? Uh-huh. Per come almeno lo intendo io. Certo. E quindi va da sé che era molto più rodato, e poi c'è l'esplosione al mondiale argentino, dove non conosceva nessuno e lo cominciano a conoscere tutti, perché veramente dispiega la sua abilità. La sua tecnica, anche perché tu hai ragione, in area al momento almeno questo Rossi non vale quello là, nemmeno quello là giovane, no, non quello di Spagna che poi diventerà implacabile. Certo. Quel Rossi aveva dei colpi di tecnica, io ricordo, proprio in quel mondiale argentino, l'1-2 con Bettega certo, allo stadio certo. River, cosa da... Un bagaglio tecnico notevole, finalizzato al gol anche per la struttura, non dimenticarla, abbastanza gracile, 3 menischi fatti, anche questo è un elemento che lo divide da Giuseppe, per fortuna di Giuseppe, però appunto tecnica, voracità, lucidità, tutte tutte armi che, per l'amor del cielo, si riscontrano anche in Giuseppe. Questo è il viatico del Rossi americano, chiamiamolo così, in vista di un'ascesa che va assolutamente completata, perché Gigi, insomma, Paolo fece le sue più grandi cose al mondiale, non dimentichiamolo mai. Sì. Giuseppe è benissimo avviato, però aspettiamo, perché sai come siamo fatti noi italiani. Quindi ci vuole un attimo, adesso è già diventato addirittura più di Paolo Rossi, invece ci vuole calma. Sì, ma molta calma. Hai accentato prima i tre menischi. Tre menischi in un'epoca in cui oltretutto le tecniche chirurgiche erano diverse, in cui un menisco era uno dei fulmini, no? che ti potevano cadere addosso, mentre oggi il menisco è considerato una carie dentale, ma insomma, una rudine. Quindi tre mancanti su quattro, tant'è vero che poi costrinsero Paolo a finire la carriera a 30 anni scarsi, insomma, certo, no? Certo. Proprio questo rilievo conferma e accentua la grandezza di questa carriera così velox, così precox di Paolo, perché se no Paolo chissà cosa avrebbe potuto fare, potendo contare su, sì, stampelle più solide. Cioè, la sua, io ricorderò sempre, per me la sua più grande rapina, che è quella nel derby, vinto peraltro dal Toro in rimonta da 2-0 a 2-3, che tu ricorderai bene, 3 gol in 3 minuti, ma quello che fece Van de Corpus sulla linea di fondo, quella è una rapina piede armato, proprio incredibile. Sì, un giocatore di una rapidità pazzesca. Tutti cercammo la palla, così come nel primo gol ai polacchi ai mondiali tutti cercammo chi aveva segnato, lì tutti cercammo dove era finita la palla, e poi dalle sue braccine alzate capimmo che probabilmente era finita in rete. Veramente un grande giocatore. Andiamo avanti con le suggestioni, ce n'è ancora una legata al nome, al battesimo. Dunque, lui là in Spagna divenne Pablito per forza, a parte che forse lo era già in Argentina Pablito, no? Per ragioni. La stessa lingua, quindi sì, mi pare di ricordare che era già Pablito in Argentina, e poi a maggior ragione lo ridiventò in Spagna. Qui già era, devo dire che come nomi andiamo abbastanza bene, perché lui si è autodefinito Giuseppe Paisà, con le origini, no? Lo trovo divertentissimo. Il fatto che adesso il vecchio Paolo Rossi invece lo voglia ribattezzare Pepito, lo trovo ancora più carino, se vogliamo. Certo, certo, no? Perché significa continuità nella diversità, tanto per usare una frase, capito, molto italiana, molto politichese, capito? È chiaro che Pablito II sarebbe stato banale, Pepito è quantomeno originale, almeno Pepito si spera. È molto, ma molto, molto carino. Senti, io credo che se Lippi riuscisse a trovare, e magari c'è, non lo so, un Pepito per ogni reparto, dici? Credo che sarebbe il toccasana prospettivo. È chiaro che, sai, con un Pepito per ogni reparto potremmo anche veramente già scrivere di aver vinto i mondiali o quasi. Però così no, ci vorrebbe un Pepito in difesa, hai capito? In difesa, e comunque, insomma, io penso che, sai, come è stato detto e scritto da tutti, Gigi, per vincere un mondiale, un europeo, non bisogna essere più forti sempre, ma essere più forti in quel mese. Ogni tanto noi, soprattutto in chiave mondiale, ci riusciamo, molto più dei bellissimi spagnoli che, come tutti sappiamo, sul podio mondiale non sono mai saliti. Per cui, insomma, vediamo un po' quello che succede, però ci vuole adesso qualcuno che ci faccia emozionare, ma non alla Maifredi o alla Giulio Cesare in difesa, hai capito? Senza esagerare. Senti, io chiuderei con una cosa vecchia maniera, ma insomma, che ho molto apprezzato, che ha detto proprio Paolino Rossi a proposito del suo erede. Dice: a vederlo sembra uno molto a posto, perché ha quella faccia pulita, niente tatuaggi o strane capigliature, mi dà l'idea di un ragazzo fuori dal tempo. Credo che questa potrebbe essere una garanzia in più. Certo, certo, una garanzia, anche a me ha colpito sto fatto, infatti probabilmente sbaglio, ma tutti quelli che non hanno tatuaggi per me partono con un punto in più nel giudizio, quindi sono vecchissimo io, quindi, però sai, essendo diventati il tatuaggio non più una differenza, ma il conformismo dell'anticonformismo, l'omologazione, certo. Esattamente, già questo ti sembra, però adesso diciamo che si è proposto molto bene, perché sai, è un ragazzo poi soprattutto di mondo, paesà, nato nel New Jersey, venuto in Italia, poi in Inghilterra, insomma è uno che ha girato il mondo, è cittadino del mondo e quindi potrebbe anche portarcelo. Proviamo ad adottarlo. Certo, volentieri. Ecco, vedi, poi il solito discorso che facciamo noi italiani, a Villarreal, non è nel Real Madrid. Con tutto il rispetto, è al Villarreal, capito? Quindi poi... Roberto, grazie. Grazie a te Gigi, grazie a voi. Un abbraccio e alla prossima occasione. Insomma, stando alla prima agenzia battuta dall'Ansa, è un problema ai denti quello che si è messo lì traverso per l'ingaggio di Cissokho da parte del Milan. Un problema ai denti sul quale lo staff medico rossonero vuole vederci chiaro. Leggo questa agenzia appena uscita. Questa è la ragione per cui Cissokho non ha ancora firmato il contratto con il Milan. Nel corso delle visite sostenute ieri e oggi dal franco senegalese proveniente dal Porto, è emerso un problema ai denti che potrebbe condizionare la postura. Questa è una cosa reale e quindi non è escluso che occorrano come minimo altri test sul giocatore prima di dare il via libera alla firma del contratto, che in origine era previsto per la mattinata di oggi. Sentiamo il primo degli ascoltatori che ha chiamato, quelli che sono già in scaletta chiamano da Rimini, Roma, Torino e Udine. Da Rimini ha chiamato Luca, buongiorno. Sì, buongiorno dottore, complimenti a lei e anche al dottor Torrini, le competenze e l'obiettività. Io sogno come un gruppo di interessi un primo attacco Rossi a Confesca Balotelli. Non so se possono far fischiare le orecchie a Moratti, però noi metteremo una cera firme. Comunque sì, noi siamo un po' dispiaciuti perché l'Inter segue questa così politica, anche perché quando Moratti va a comprare qualcosa di italiano il prezzo lievita, evidentemente lo credono un po' ingenuo, un po' benefattore, quindi noi comunque tutti voglieremo qualche giocatore in più e speriamo un altro anno che Mourinho faccia, come detto, di inserire qualche primavera, visto che la primavera e anche gli altri categorie giovanili dell'Inter sì, portano molto bene, insomma. Coraggio comunque in Italia. Grazie, grazie Luca. Io per la verità, vedendo Rimini, pensavo che un ascoltatore riminese avrebbe voluto intervenire su quello che è successo negli ultimi giorni, i giorni scorsi a Rimini, e che poi ieri ha avuto il suo malauguratamente il suo clou, e cioè il fatto che nella notte tra lunedì e martedì qualcuno abbia fatto esplodere un grosso petardo sotto la casa di Ricchiuti, il capitano del Rimini, appena retrocesso dopo lo spareggio perso con l'Ancona. È un'esplosione forte che ha svegliato l'intera palazzina con danni all'auto del giocatore, ma ovviamente con un grande spavento, con lo shock che è ancora aumentato rispetto ai giorni precedenti, quando già c'erano state scritte sui muri circostanti la casa, Ricchiuti vattene, una rissa sfiorata in precedenza da ultrà che avevano insultato il giocatore e il padre in auto con lui, insomma. Una situazione delirante di quelle che siamo soprattutto nel calcio di provincia si è abituati a vivere, ma che ogni volta quando la si racconta si fa sinceramente fatica a credere. E allora io direi di ascoltare quello che a Sky Sport ha raccontato proprio l'interessato, proprio la vittima di questa serie di aggressioni demenziali, e cioè il capitano del Rimini, Ricchiuti. Hanno messo una bomba carta sotto la macchina, che è un'esplosione devastante. Per fortuna non è successo niente di particolare fisico, però il trauma per i bambini, per mia moglie, per tante persone che abitano in questo condominio è stato un fatto gravissimo. Loro sono delusi, io lo sono forse ancora più di loro, perché io so quanto ho rifiutato per stare qua a Rimini, l'ho fatto col cuore, e quindi sanno tutti quanto ci tengo a questa maglia, quindi credo che se loro sono delusi, il sottoscritto ancora di più. Era partito da un giornalista che mi aveva detto: come mai, cosa ne pensi di questa gente che è stata fermata con delle molotov, così. Ho detto: per me è gente che deve andare in galera, perché io ho dei bambini e questa gente allo stadio non deve venire. Dopo sabato sono 4 giorni che non si esce di casa. Purtroppo se succede questo la sera, magari durante il giorno può succedere altro, quindi è meglio stare a casa, e sperando che tutto questo finisca e ripartire il prossimo anno. Rimini, Italia. Anno di grazia 2009. Sandro ha chiamato da Roma, buongiorno. Bentornato, grazie. Buongiorno. Senta, inserirsi in questo momento non è facilissimo, perché in effetti volevo affrontare un argomento più leggero, ma la ringrazio comunque di farci riflettere. Alleggerisca, a piacere. Alleggeriamo, allora. Due cose, velocissime. Intanto ricordo benissimo Paolo Rossi nella primavera della Juventus, al suo primo menisco, ed era già una promessa incredibile. Io mi ricordo un'intervista su Rai Juventus davvero molto promettente, e anche un ragazzo molto determinato. Ricordo questa sua toscanità che veniva fuori dall'intervista, stiamo parlando proprio della metà degli anni 70. Sì. E poi volevo farle un'osservazione, tanto che glielo volevo chiedere. Lei parla ormai di calcio in televisione, se ho capito bene lei allo stadio non ci va più, ci va molto raramente. Esatto. E allora, dato che lei invece è stato un frequentatore dello stadio, mi chiedo se riesce attraverso la televisione a seguire il calcio come faceva, per esempio, quando è andato a vedere alcune partite che ci ha citato anche questa settimana. No, non è la stessa cosa, Sandro, evidentemente. Il calcio come lo si può gustare e soprattutto studiare allo stadio non lo si può studiare in televisione, questo è oggettivo. La televisione qualcosa ti toglie e al di là della suggestione ti toglie qualcosa dal punto di vista tecnico e soprattutto tattico, perché tu hai sempre soltanto la visione del pallone e di tutto quello che è intorno al pallone, ma non hai la visione globale del campo, quindi da questo punto di vista è riduttivo. In compenso è enormemente più documentale dal punto di vista del particolare e della reiterazione del particolare, sicché alla fine io credo che le due cose si compensino, dipende dall'ottica in cui le cose si raccontano. Comunque è una scelta che non è dovuta, a parte il fatto che oggi sarebbe praticamente impossibile seguire davvero il calcio agli stadi, e potresti, cioè, non faresti altro che girare come una trottola in continuazione, visto che una volta il calcio aveva un'unità un'unità temporale che oggi non ha più e che costringerebbe a cose. Sì, ci si contenta di quello che la televisione passa. Direi che dal punto di vista qualitativo di riprese e anche di ricerca meno frenetica del particolare ad ogni costo rispetto a qualche anno fa, parlo di partite, che è l'unica cosa che conta, poi quando la partita è finita Non ne voglio più sapere, il televisore si spegne e mi sembra, ripeto, che dal punto di vista documentale ci stia tutto, certo con quella differenza: qui più particolari, là più sguardo l'insieme e più possibilità di investigare anche dove la palla non c'è, quindi lontano dall'azione vera e propria. Daniele Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Forse con tutte le telecamere che le televisioni hanno in ballo si potrebbe anche riprendere il discorso che stava facendo lei adesso con l'ascoltatore prima, cioè una o due potrebbero essere dedicate a uno sguardo più ampio che non al punto esatto in cui è il pallone in quel momento, al giocatore che ce l'ha tra i piedi. Però io avevo chiamato, mi scusi, per ritornare ai due rossi di inizio puntata, nel senso che secondo me tecnicamente quello di oggi è meglio di Pablito. Pablito aveva, secondo i miei ricordi, più l'istinto del gol alla Inzaghi intesa in senso elogiativo. E poi un paio d'anni fa Corvino disse che lui era già riuscito a mettersi d'accordo col Parma, mi sembra, per l'ingaggio di Giuseppe Rossi, appunto, però poi arrivò il Villarreal che offrì molto di più come ingaggio, e quindi ritorniamo al discorso sul fisco e su quanto il nostro campionato è penalizzante, sempre che Corvino, ma non credo che insomma sempre che no, su questo non ho idea e non insomma ed è marginale, direi. I paragoni sono sempre impropri, no, tra giocatori di epoche diverse. Questo direi che è inevitabile per un fatto di suggestione, perché c'è, non solo c'è un cognome in comune, che poi è il cognome più italiano che esista, ma la suggestione è anche dalla comunanza del ruolo e da caratteristiche non identiche, perché nessuno è identico a un altro, ma da caratteristiche simili, queste sì. Il suo ricordo di Rossi, di Paolo Rossi, è un po' riduttivo, sinceramente, perché non era soltanto un opportunista d'area, era un grande giocatore in tutte le zone del campo che... perse la condizione fisica troppo presto, perse il suo meglio, la sua velocità d'esecuzione e con una tecnica eccellente, la perse prima per ragioni meniscali, e lo ricordavo con Roberto Beccantini, e poi per una lunga squalifica di 2 anni da cui si riprese a malapena, e per fortuna il calcio italiano la ripresa migliore avvenne proprio in coincidenza con la fase finale, non tutte le 7 partite ma le ultime 4 di quel mondiale di Spagna. Tra i tanti incisi brillanti, come sempre, che Roberto Beccantini ha esposto in precedenza, c'è stato quello relativo alla divisa, alla nuova divisa della nazionale italiana. Stamane, nella sua rubrica di posta della Gazzetta dello Sport, Porto Franco, Franco Arturi si domanda: è giusto modificare in modo sensibile un colore simbolo? La mia risposta è un netto no, scrive Arturi. Mi interessa poco sapere se il tricolore italiano sarebbe più carino se al posto del rosso si inserisse, che ne so, il rosa. La bandiera nazionale ne risulterebbe deturpata. La stessa cosa vale per il punto di azzurro delle nazionali. Dovrebbe essere individuato, marchiato, conosciuto e soprattutto immutabile nei secoli. A queste condizioni, su di esso si potrebbe certamente fare dell'onesto merchandise. Sullo stesso argomento anche Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, che scrive: a proposito di marketing, chi ha disegnato le maglie azzurre e cosa c'entrerebbero con quelle splendide degli anni 30? Vi prego, fermateli. Tocca ad Aldo da Udine, buongiorno. Ah, buongiorno, io volevo intervenire non in maniera polemica, è un ricordo di gioventù, sono nato in Venezuela, mi ricordo di Paolo Rossi in quell'epoca, 50 anni, no? Era per noi figli di emigranti, è stato una rivelazione, un qualcosa a cui affidarsi, perché il paese, il Venezuela, con la frontiera col Brasile, insomma, attendono al Brasile, e mi ricordo perfettamente che di quel girone tra l'Argentina, l'Italia e il Brasile passava di gruppo chi vinceva delle altre due partite. Certo. Si diceva che chi dava più gol all'Italia sarebbe passato il girone. Qual è stata la sorpresa? Che Rossi l'hanno battezzato il Casaguiro. Casaguiro è il cacciatore di opportunità. Non si vedeva mai, ma quando era in mezzo faceva il gol, no? Ed è stata bella perché poi i stessi commentaristi venezuelani pro Brasile hanno dovuto in qualche maniera accettare la genialità di cercare l'opportunità di questo giocatore, di Paolo Rossi. Ecco, certo. Era un ricordo di gioventù questo qua, no? Che volevo, di un'altra latitudine, di un altro continente. Che voleva condividere con noi, ma certo, grazie, grazie Aldo. Giorgio Minetti scrive una mail da Bologna e dice: io Giuseppe Rossi non riesco ancora a capirlo, cioè non riesco ancora a capire se sia forte o no. Certo, fosse sempre come martedì scorso sarebbe un fenomeno, ma mi lascia perplesso una punta che in un campionato giudicato dai più favorevoli agli attaccanti, pur giocando sempre titolare fisso, ha segnato 12 gol, dei quali la metà su rigore, e non ha lasciato tracce in altre manifestazioni. Lei che ne pensa? Io penso, e lo dicevo prima conversando con Beccantini, penso che, ammesso che abbiano in senso i paragoni, e ripeto, in questo caso sì, per un fatto di comunanza di battesimo, il rapporto andrebbe sempre fatto a parità di età, secondo me. Quindi la parità di età è questa. Oggi Giuseppe Rossi ha 22 anni, va preso il Paolo Rossi dei suoi 22 anni, e quindi del 78-79. Bene, secondo me quel Paolo, a differenza di quello che pensano alcuni ascoltatori che ho sentito prima, la cui memoria evidentemente è un po' sbiadita, beati loro, perché forse erano piccolini quando Paolo Rossi giocava. Oggi, a parità di 22 anni, il Paolo Rossi di allora era un'altra categoria rispetto a questo Giovanni Rossi, con tutto il rispetto e con tutte le speranze che posso citare e con tutti i numeri che ha. Ma il Paolo Rossi, 21-22enne, era veramente un altro giocatore. Andrea Torino, buongiorno. Pronto? Andrea, nada de nada, c'è un altro riminese, Marco, buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Niente, io volevo dire a proposito del fatto increscioso successo a Ricchiuti, che chiaramente è stato abbastanza traumatico per tutta la città, e emblema anche di una situazione che si è creata mano a mano in quest'anno, più che altro dal girone di ritorno in poi, quando la squadra chiaramente non ha fatto più i risultati, messa in condizione chiaramente dalla società che, vendendo il capocannoniere, un elemento importante del centrocampo, ne ha di fatto indebolito la struttura e tutta la squadra ne ha pagato le conseguenze. Chiaramente il giocatore più rappresentativo poi dopo viene preso un po' di mira, però fino a questo punto chiaramente è una situazione ingiustificabile e che lascia perplessi, che chiaramente toglie anche la voglia di ritornare allo stadio come prima, insomma, me l'immagino bene, insomma, non capisco che cosa ci si possa andare a fare allo stadio a condividere con la propria sola presenza, a condividere uno spazio fisico con della gentaglia del genere. Per me veramente è inammissibile il solo pensiero, sinceramente. E non si sa neanche se quelli nello specifico vengono allo stadio, però un po' è nato un clima particolare, sono Ricchiuti da nessuna parte, un po' chiaramente la società ce l'ha messo del suo perché non ha difeso in certi momenti la squadra, non gli è stata vicina, chi Ricchiuti questo durante l'anno l'ha sottolineato, tra parentesi, la squadra è stata abbandonata letteralmente dalla proprietà. E quindi poi si è verificato tutto questo. Sì, anche se mi pare di capire che Ricchiuti, e lo ha detto chiaro lui prima nel mirino, ci sia finito per aver detto che questa gente, che questi ultra, eccetera, se anche finissero in galera lui non ci avrebbe lacrimato in maniera particolare. Mi sembra che questo poi sia stato l'inizio. Ma evidentemente per una dichiarazione del genere bisognava che ne avessero già combinate. Insomma, il solito. No, nulla di particolarmente nuovo, purtroppo, alle nostre latitudini. Santo ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. No, niente, ma già in parte mi ha già risposto. Chiamavo soltanto per i termini di paragone che secondo me un po' lasciano il tempo che trovano. Due epoche diverse, due modi di giocare diversi. Lo stesso cognome. Cosa? Lo stesso cognome, cioè se questo qua si chiamava Scacca Barozzi non ci sarebbe mai venuto in mente di parlare di Rossi. No, ma era soltanto, difatti ho già detto che lei mi ha risposto in maniera molto esauriente, ma soltanto perché io il calcio che vedevo una volta, che adesso sono un po' lontano sia dai campi di calcio che dal modo di vedere questo calcio, che non mi assomiglia più come persona interessata, perché ormai è molto diluito negli interessi e in altri interessi. Mm-hmm. Ecco, soltanto questo volevo intervenire, perché i termini di paragone secondo me, ma anche come metodo di allenamento, di gioco, se era soltanto per il cognome, allora va bene, meno male che si chiamano Rossi, che mi pare che sia il cognome più diffuso in Italia. Mm-hmm. Si chiamano Rossi e non eccessivamente, ma un po' si somigliano anche per caratteristiche. Da qui, ripeto, la suggestione e niente più. Giacomo scrive: trovo vergognoso collegare l'aggressione a Ricchiuti all'andamento tecnico e ai risultati sportivi della stagione del Rimini. Questa gente, questi sono criminali e basta. Ecco, Giacomo la dice in maniera un po' brutale. L'ascoltatore di prima, a cui l'intervento di Giacomo, l'intervento scritto, si riferisce, in realtà stava soltanto, in buonissima fede a parer mio, anche per il tono, stava soltanto cercando di spiegare, più che di spiegare, di capire lui per primo come si potesse essere arrivati a tanto. E forse commetteva un errore, perché non vale la pena di provare a capire, non dico a giustificare, ma nemmeno a capire questa gente. Sono i criminali e basta, scrive Giacomo, e io sono molto più vicino alle posizioni di Giacomo che non dell'ascoltatore di prima. Prima dei prossimi due potremmo ascoltare, proprio per ampliare un pochino gli orizzonti, questo intervento del direttore sportivo del Napoli, Pierpaolo Marino, direttore generale, sul conto di Lavezzi. Sapete che i rapporti tra Lavezzi e il Napoli sono abbastanza pesantemente incrinati e certamente l'ultimo carico da 11 l'ha messo, come sempre, il presidente De Laurentiis la scorsa settimana. Sentiamo. Noi ci aspettiamo che venga il ritiro, poi dopo diciamo, il contenzioso legale comincia nel momento in cui uno fa un'inadempienza che per il momento non c'è. D'altra parte sappiamo bene anche che il campionato del Napoli nel girone di ritorno è stato un campionato vergognoso e dove nessun giocatore si è salvato da un rendimento di basso profilo. per Pellissier, come si sa, il Chievo non ha intenzione in questo momento di cederlo, né d'altra parte si riscontra da parte del giocatore un particolare entusiasmo a venire a Napoli. Poi per quanto riguarda gli altri due, vedo molto remota la possibilità che l'Udinese si possa privare anche di Di Natale dopo Quagliarella. Poi vedremo se sono rose gli fioriranno, no? Tutto il rispetto, scrive Alex Fabri da Monza, 35 anni fa era un altro calcio più lento e le qualità di Pablito venivano fuori più agevolmente, per questo è improponibile un paragone. 35 anni fa il calcio era un po' più lento, ma non era così lento come dice lei, e soprattutto era velocissimo Paolino Rossi con tre menischi in meno. Basilio da Vicenza scrive: avessero visto davvero i Rossi del 76 o del 78, non staremmo adesso a fare dei paragoni con questo Rossi, che è quello che dicevo io prima, anche se questo Rossi è un giocatore molto interessante. Andrea Torino, buongiorno. Andrea è un fenomeno, ragazzi, è la seconda volta che chiede di essere messo in linea e poi quando gli dico Andrea Torino per oggi è squalificato. Pio, provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho fatto purtroppo l'allenatore delle giovanili sia di calcio che di pallacanestro. E niente, le difficoltà ci sono e ci sono parecchie. Il problema è, si parla dei vivai, si parla di questo, si parla di quell'altro, ma quali garanzie danno a questi vivai, insomma? Perché io mi sono trovato in enorme difficoltà in Serie C, e praticamente succedeva che, come nasceva un piccolo calciatore di un certo livello, cioè arrivava subito il procuratore, quindi i casini, e non si capisce, con proposte un poco, io dico un poco strane, perché per giovani di quell'età eccetera eccetera, questi promettevano mari, mondi eccetera, arrivavano dall'estero, arrivavano dall'Italia, arrivavano da tutte le parti, insomma. Sì. E poi non si può andare a parlare di un vivaio, ma come si può investire in un vivaio quando ci sono questi, io li chiamo scansafatiche e rompiscatole, insomma. Va bene, grazie anche a lei, Pio. Se poi questo paragone tra i due Rossi ci può stare o non ci può stare, credo che sia Paolo Rossi il più autorevole a poterlo dire, non certamente Giuseppe, che non era nato quando Paolino si ritirò. Paolo Rossi ha detto stamane al Corriere della Sera: sì, è vero, qualcosa in comune abbiamo, lui è veloce ed è rapido ed è anche tecnico, sa giocare con gli altri perché ha un piede niente male, un po' mi rivedo in lui. Credo che questo sia più o meno l'ambito, no, di questa conversazione, per quel che può valere. Ripasso di storia, 17 giugno, data storica per il calcio italiano, ma non è che ogni anno il povero Nicola Filippone può ricordare che il 17 giugno per esempio fu il giorno Italia-Germania 4-3 nel 70, no? Quindi mi auguro che abbia battuto altre piste della memoria. Sentiamo. Sembra ieri. 17 giugno 1962. A Santiago del Cile, il Brasile insegue il secondo titolo mondiale consecutivo, sfidando in finale la sorprendente Cecoslovacchia, che già aveva bloccato i campioni del mondo sullo 0-0 nel girone eliminatorio. Ed è proprio la Cecoslovacchia a passare in vantaggio con Masopust dopo un quarto d'ora. Il Brasile però pareggia immediatamente con Amarildo, sostituto dell'infortunato Pelé. Le reti che decretano il trionfo della Seleção arrivano nel secondo tempo e portano le firme del mediano Zito e dell'attaccante Vavá. Quest'ultimo diventa il primo giocatore ad andare in gol in due finali mondiali, avendo realizzato una doppietta in quella del 58. Dopo di lui, l'impresa riuscirà ad altri tre: Pelé, il terzino tedesco Breitner e Zidane. Già, però. Allora, ancora due o tre ascoltatori, prima del collegamento con Sudafrica. Enrico Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Desideravo intervenire velocemente sul discorso Paolo Rossi, se non altro perché l'ho visto giocare, me lo ricordo perfettamente e sono completamente d'accordo con lei quando ricordava prima che Paolo Rossi, prima del Mondiale 82, prima della squalifica che lo tenne fuori dai campi di gioco per 2 anni, era veramente un giocatore eccezionale. Naturalmente era portato ai tempi, credo che sia improbabile fare oggi un confronto tra il calcio di oggi e quello di 25-30 anni fa, bisogna collocare i giocatori nella loro epoca. Sì, però, e Paolo Rossi da allora era qualcosa di eccezionale. Paolo Rossi del 78 e la nazionale del 78, che a mio modo di vedere ha espresso un calcio addirittura migliore di quello della nazionale dell'82. Questo sono d'accordo con lei, ed è d'accordo con lei anche Beazot, che ha sempre preferito l'Argentina alla Spagna come nazionale. È vero che sono tempi diversi, però anche allora si giocava in 110 metri per 65, le porte erano grandi uguali, si giocava in 11, la palla era quella, anche se era un po' meno elastica di quella di oggi, quindi volava meno. Paolo Rossi nel 77-78, mi ricordo un ascoltatore, cioè prima del mondiale d'Argentina, giocò 29 partite su 30 nella Nerossi-Vicenza, e segnò 24 gol in quel campionato su 29 partite. Insomma, questi sono i numeri e questa è la caratura, poi su tutto il resto si può opinare. Ancora un bolognese, Simone, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Chi che è? Solo una cosa velocissima. Sì. La questione dei rifiuti, quello che sta succedendo, è successo al Milan con l'addio al calcio di Maldini, quello che succede all'Otito con la Lazio, cioè io non capisco, le chiedo cosa ne pensa lei, ma le società sono ricattate dalle stesse persone alle quali poi tutte le domeniche regalano i biglietti. Allora sanno nomi, cognomi, sanno dove stanno, sanno chi sono, sanno tutto. Ecco, questo è un intervento sintetico, no? Perché sintetico non solo perché è rapido, ma perché anziché prendere sempre la circonvallazione per girare intorno al problema, va dritto al cuore del problema e dice esattamente le cose come stanno, perlomeno in 98-99 casi su 100. È così, Simone. Ancora un lucchese in questo caso, che si chiama Renato, poi andiamo in Sudafrica. Renato, dica. Buongiorno, signor Garanzini. Buongiorno. Spero di essere abbastanza chiaro, perché io la sento bassissimo. Più che Giuseppe Rossi, secondo me l'erede di Paolo Rossi c'è stato fino adesso, è Inzaghi. Che almeno da quando mi ricordo io, i 40 anni, mi ricordo il Rossi dopo la squalifica che ha subito, che non era più tanto tecnico ma era rapidissimo, come vediamo Inzaghi adesso, che si infila da tutte le parti al limite del fuorigioco e fa gol. Lo vedevo più un paragone simile come giocatore che Giuseppe Rossi, che mi sembra un po' più tecnico e meno cinico di Paolo Rossi. Sì, però si chiama Rossi, Renato, e quindi da lì le ripeto, perché se no non avremmo messo in piedi tutto questo cosa e tutti i giornali non starebbero parlando della stessa cosa. Dopodiché, di gol sul filo del fuorigioco, Paolino Rossi erano sempre segnati pochi, era un... aveva altre caratteristiche, ha tutt'altra tecnica rispetto all'Inzaghi, indipendentemente poi dal numero di gol che uno può aver segnato o meno, e soprattutto dalla buona salute e longevità che ha assistito Inzaghi, mentre invece non ha assistito Paolo Rossi, che, le ripeto, le ricordo, a 19 anni era già senza tre menischi su 4, e quindi vede che diventa difficile. Stefano Piazza, ci sei? Ci sono, eccomi. Certo, ci sei, perfetto. Benissimo, allora posso far partire la sigla. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. Collegamento con il Sudafrica, con Stefano Piazza, che ogni giorno ci racconta altre cose, ma insomma in particolare si sofferma su uno spunto. Io credo che oggi varrebbe la pena di andare un pochino avanti su quello di ieri, su questi bu che poi erano boot, no? Su questo equivoco che si è creato, certo. sui possibili, che poi invece erano inesistenti, che non c'entravano nulla, fischi all'unico giocatore bianco in una nazionale nera, cioè quella sudafricana. Andiamo avanti su questo argomento, cioè l'apartheid in un'avventura sudafricana di quest'anno e a maggior ragione in quella gigantesca dell'anno prossimo. Sì, c'è questo spunto interessante secondo me, visto che ieri cadeva l'anniversario della cosiddetta strage di Soweto, che diede il via, anche se poi ci vogliono altri 15 anni, al declino, alla caduta dell'apartheid. A Soweto si giocherà la prima partita e la finale del Mondiale del 2010, quindi sì. Diciamo che per la prima volta un evento planetario arriverà a Soweto, mentre le precedenti edizioni di mondiali di altri sport, come il rugby per esempio, non lo toccarono minimamente. I bianchi, come sappiamo, non sono dei grandissimi fan del soccer, ecco, o del calcio. Questa è la spiegazione. Scusami? No, dico, questa è la spiegazione, cioè il fatto che a seconda delle etnie uno sport è preferito, esatto, rispetto all'altro. Esattamente, infatti quest'anno la Confederations Cup passa ovviamente da Johannesburg, ma si gioca a Ellis Park, che è lo stadio del rugby, dove Sudafrica vinse la Coppa del Mondo nel 95, appena reintegrato nei ranghi della comunità internazionale. L'anno prossimo invece le partite fondamentali si giocheranno a Soweto, per cui anche i bianchi, che comunque ripeto sono un po' freddini, ma iniziano un po' ad avvicinarsi a questo sport, l'anno prossimo dovranno comunque passare da Soweto. E chissà che anche questo non serva a contribuire a, come dire, a lanciare un pochino di più a rassicurare la FIFA, che non è tanto convinta del numero di spettatori negli stadi, e che quindi si augura che per l'anno che conta, che sarà il 2010, non certamente questo 2009, i sudafricani rispondano, no? Indipendentemente poi dal loro colore. Io ringrazio Stefano Piazza, così come ringrazio Filippo Aureggi che ha regolato e che ha diretto oggi la parte tecnica, che ringrazio Flavio Suardi per l'apporto redazionale. La sigla di questo spazio sudafricano, che verrà seguita poi dalla sigla tradizionale. A domani. Confederation Cup, a un anno dal mondiale, in collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo, da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52% fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan.